Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qua in radio, ciao ragazzi, ci siamo tutti, siamo in pochi, giusto? Mi sentivo quasi solo praticamente, mi sentite bene alle cuffie, mi sentite? Anche voi, vero, mi sentite? Sì, ecco. Ecco, sento, però si sente lo stesso, vai. Va bene, per loro è più emozionante, ma soprattutto per la sposa che è entrata proprio nella parte. Allora, grande sposa. Allora, come si chiama la sposa? Stefania. Stefania, da dove vieni? Cazzago San Martino. Ok, e voi siete tutte le cazzaghine praticamente, eh? Cosa dicono gli abitanti di Cazzago? Le cazzate. Ecco, immaginavo, preparatissima la sposa, tra l'altro. È ancora più intelligente. Ancora più intelligente la sposa. Perfetto. E pensiamo a livello delle altre. Ecco, ecco, non sappiamo perché si sposa. Lo sapete perché? Perché essendo intelligente perché non dovrebbe in teoria. Ah, perché gliel'ha chiesto? Perché si sposa, un'altra che dice perché si sposa la sposa? Vale, tu ti sei sposata. perché si sposa la sposa? Dai, lanciamo questo. Alla sposa? Ma lì no, quando sono lì con la nepe. Ah, ecco perché qui. Non è contento tuo marito, Val. Ma non glielo possiamo ascoltare. Non gliel'hai mai detto? No, cioè non gli hai mai detto che non sei riuscita a dirgli di no. Ti salutiamo marito di Vale. Ciao Ivana. Metti caso che per sbaglio ha scaricato l'applicazione e sta ascoltando in diretta. Ecco. No. Fa il camionista lui? No, magari sta guidando adesso, ha sbandato un attimo. Ah, è l'addio al celibato. Dov'è l'addio al celibato? Non abbiamo la minima idea. Mi piace questo. Forse al Coco Beach, forse sì, forse no. Ma noi siamo al convento. Noi siamo al convento. Apprezzo la spontaneità, ragazze. Ecco, tra l'altro. Le ragazze di Cazzago sono molto sincere. Ecco, parla vicino al microfono, che. Ecco, è quella cosa lunga nera che spunta. No, glielo ho dovuto spiegare. Non siamo in Giamaica, Vale. Ecco. Ecco, esatto. Se no, era per quello che stavi lontano dalla cosa lunga nera. Temevi di essere già in Giamaica? Perché ricordiamo, dillo te, sposa, cosa fai con le tue amiche? Andiamo in viaggio di nozze in Giamaica. Noi. Senza il marito. Esatto, li va dove vuole. Il primo viaggio di nozze senza il marito. Con tutte le amiche. È il futuro questo. Cioè, il marito serve per pagare il ristorante, giusto? Sì. Per sganciare l'anellone all'inizio. Esatto. E poi vi aspetta a casa che fai i mestieri. Esatto. Vedo un futuro roseo per Alessandro si chiama. Vai poi, Alessandro! Voi fate il tifo perché così almeno se la sposa e paga e voi andate in Giamaica. Qual è il motivo che vi spinge ad andare in Giamaica, ragazze? Il mare. Le spiagge. Poi c'è qualcun'altra? Il sole, esatto. Il clima, ci sta, ecco. Basta, mi sembrano i tre motivi principali per cui sette ragazze. Sette, sì? Sette. Oh, l'altra è già con la testa in Giamaica. No, l'altra qual è? Quella lì, ferma lì. Ah, la salutiamo? Ciao Nicoletta! Ciao Nico, sei tutte noi! Ecco. È la parte seria del gruppo? No! È un'illusione anche lei! È un'illusione! È bello passarsi la cuffia? Cioè, è più bello? Bellissimo! Vedo è la faccia della mia vita! Vedo la faccia estasiata di questa ragazza! Adesso che ha messo la cuffia! Comunque, volevo salutare Fabrizio Moro, ti amiamo! Fabri! Vai Fabri! È vostro amico? Bidone. Ah, è quello di prima? Doveva venire qua? Doveva esserci. Ma dai, la sorpresa è che sarà in Giamaica anche lui. Grande Fabri! È per quello che non è venuto. Ma anche tu allora! Se lui deve sparare, spara grosso. Dobbiamo, ha detto. Preoccuparci se lui è là. Dovete preoccuparvi? No, io vi preoccuperei degli abitanti della Giamaica, se fossi te. Ecco. per altri motivi, però, ecco. È gente ospitale. Sapete che sono ospitali? Sì. Vi accolgono non a viaggiare sicuri, ce lo consiglia. A viaggiare sicuri, è proprio viaggiare sicuri che ve lo consiglio. Sì. Vi siete informate, vedo questo cos'è? Quello c'è un ragazzo che tra l'altro le mani unte, ecco. Questo ragazzo rivendica è lì col buono, ecco perché. coupon per un bacio della sposa. Ragazzi, spiegate un attimo che cosa sono questi coupon che girano. Qualcuno che spiega il perché di questi buoni. E Simone spiega. No, che ci spiega. No, okay. Che è l'ideatrice. Ecco. Così, allora ci sono dei coupon emessi dalle amiche della sposa. Sta fermo. Valido solo per l'addio al nubilato. Quindi ma sta leggendo, non lo sa lei. No, no. Tutti i maschietti, non lo ricordavo più, del convento potranno andare a dare un bacio gratis, anche lui, anche le signorine, c'è stata una signorina. Io rivendico, dare un bacio alla sposa, la sposa non può fare niente, deve stare ferma. Non posso sottrarsi, verrà punita. Le fate le penitenze, ragazze? Se il ragazzo con la saliva è riuscito a incollarle. Ecco. No. La sposa è timida, abbiamo bisogno di qualche scamotaggio. Eh sì, molto timida, ma che penitenze, si possono dire le penitenze? Chi me le elenca? Siamo in fascia protetta ancora. Bacia uno sconosciuto, ok, poi? Un brindisi con uno sconosciuto. Sì? Una storia su Instagram. Con un sexy ballo lesbo con una sconosciuta. Quello forse non si può. Quello sì, è intrigante. Chiamare la suocera e chiedergli se per il matrimonio sarebbe meglio una ceretta linguine parziale o totale. E la telefonata. Prova superata. Ma ragazze, ma perché aspettare? Chi ha il cellulare che chiamiamo in diretta? Chiamiamo in diretta. Ma è importante. Chiamiamo questa domanda. Lo sposo. L'ho già chiamata. Sì, c'è già risposto. Ha risposto la suocera? Cosa ha detto la suocera? Totale. Totale, ecco. Ecco. Però chiedi alle tue amiche adesso. Però chiedi alle tue amiche che si sa mai, Va bene, è bello questo. Bella questa cosa della suocera. Bisogna raccontare anche questo. Ah, è vero. Avete rapito la suocera? No. Loretta, ciao. Ciao Lori. Un saluto alla suocera. Grande Lori. Fa l'estetista la suocera? No. Però i capelli verdi. Da quando conosce la Stefania? O per il matrimonio se li fatti? Sì. Voleva stupire. Ma viene anche lei in Giamaica? No. Dai, raccontate rapimento. Messo delle maschere di Fabrizio Moro. Veramente. Facevano paurissima. E avevamo paura in tanti. E siamo andati a prenderle. Tra di voi vi siete spaventate dopo? Sì, anche noi. Ok. Mentre ci guardavamo. Così, perfetto. Ah, vedo dalla distanza. Belle, abbastanza inquietanti, Ho fatto le foto sorridendo. Ah, pure. Si vede, è venuta l'espressione. Eravamo felici. Ah, fatemela adesso, fatemi la foto uguale. Ecco, il radio viene bene, ecco. Però l'avete fatto, brave. Siamo andate a rapirla. L'avete rapita? La situazione è mentre faceva un aperitivo che ha praticamente trincato. Non l'ha neanche finito praticamente. Ah, mentre l'avete presa di forza? Sì. Tu spaventatissima? No. Terrorizzata. Ma era già vestita così da Sailor Moon qua da... Il nostro autista e l'abbiamo fatta cambiare. Abbiamo fatto scendere l'autista del pullman mentre andava, tra l'altro. No. Penso che abbia spiato. Sì. No, sì, era da lontano. Se l'autista è un vero autista, ha spiato. Aveva giusto. Due fanali al posto. Vabbè, abbiamo un autista felice stasera. Ecco, esatto, finalmente. Finalmente l'autista felice. Bello, anche io sono felice di avervi conosciuto, ragazza. Anche il pubblico a casa che vi ha ascoltato sarà felice. Anzi, sarà triste di non essere qui al convento. Potete venire in Giamaica, però, se volete. Paghi tu! Visto che non bastano quelli là, portiamoceli anche da casa, no? Esatto. Come andare all'Oktoberfest e portarsi la birra da casa. C'era la fuga dei cervelli una volta, però adesso che fuga c'è? Invece c'è un'altra fuga. Finisce per Elli, ma non non andiamo oltre. Va bene, dai. Presentiamo tutte le amiche al volo, vai al microfono ognuna. Valentina. Ileana. Federica. Giada. Greta. Melissa. Stefania. La nostra sposa. Da Cazzago, ciao ragazze! Ciao!